Oggi erano 33°, credo che il mio termometro all'ombra fuori abbia misurato 33, pieni pure. E adesso qualcosa io, ieri sera mi ho beccato, ho acceso il condizionatore, solo aria calda usciva. Sì, che stanchezza, penso che devo ancora pranzare, infatti adesso mi accingo, faccio mangiare mamma, eccetera. Comunque sempre meno caldo che andare in macchina, tanto il clima nella mia macchina è partito, bisogna ricaricare il circuito e quando lo metto mi fa sempre male, capito? Mi becca, ho mal di gola, ho male al collo, allora tanto vale, insomma sono zainetto, ho fatto tutto. Maulette già hanno detto strapieni di roba. E lo stesso, mia moglie ha fatto la spesa stamattina. Cazzo, per poco non ci stava nel frigo. Eia. E poi se uso anche la pedana ci sta ancora più roba, perché io aggancio un bustone a quel gancio che c'è davanti allo scudo, no, della moto, davanti alle ginocchia. E ci sarebbe ancora più roba, ma non c'era bisogno, in realtà avevamo già roba accumulata. Bene, sento che non c'è nessuno, non c'è nessuno ieri, pare, lo stesso mortorio. Ieri stavo male, se sono stato male di notte e di giorno, tutto male. Oggi in confronto è andata bene la giornata. Bene Natalino, io adesso faccio quello che devo fare. Ok, ci sentiamo, ciao. Chissà che entri qualcuno, almeno per ascoltare. Sì, dai, fai quello che devi fare, prima il dovere e dopo il piacere. E il piacere qual è? Comune. Bonsoir. Che si dice, che si dice? E mio, ho acceso adesso e c'era Marco, solo che è andato a cucinare perché devono mangiare ancora. Ancora? A pranzare, non cenare, pranzare. Ehi, mangiare io ho detto, non ho parlato né di cena né di pranzo. Adesso devono pranzare a quest'ora. Già va bene, già va bene. Mamma mia che caldo che c'è fuori, Sant'Antonio mio. E deve salire, dice. Mi sa di sì, mi sa che arriva. Adesso non so se domani, dopodomani, non so, prossima settimana comunque. Prossima settimana dovremo toccare i 38-40. Sì, è meglio domani. Io mi devo piazzare quel motorino del coso, del cristallo, ma non lo posso piazzare, c'è troppo caldo, come cavolo si fa? Bisogna rimontare in vita la bassa ruota. Bassa ruota sono 4 viti, una tariga già, una gaggata, bugana, bassa ruota, cazzo non vai a una Ferrari. C'ha 4 innesti, c'ha, ne ho stacchi, senza la mano attacchi, ho la piazzata. E vabbè, però c'è troppo caldo, io non posso stare molto al caldo. Beh certo, non ti metti a fare l'oggio, trovati una mattinata fresca, di mattina presto lo puoi fare, capite? Non l'ora di buntano, mattina presto lo devi fare. È un macello, troppo caldo. E io so sì, però te lo lascio un altro io, c'è il caldo qua, e mangiati a Sassari, qua c'è più, a Bassavalle. Dice che andato a fare la spesa, gli ha bruciato la faccia. In moto è andato, si diviva un calcio di la Madonna. Mazzo. No, c'è metto caldo, però vedi, se scirocco a tutto andare. In moto c'è ancora più caldo, ma che non c'è parabrezza, ma c'è ancora più caldo, no, non fa. Lui fa la spesa, no, non saranno. Non lo saranno. Domani, mattina, presto, non ci vado mai la sera a fare la spesa. Ma non lo sai Marco com'è? Chissà che ora se ne alza la mattina. Perché qua qua è lui, se non si alza presto, e si è abbettanato tra il gas, è sempre dormito. Gappa gappa, cosa ci vuoi fare? E lui è raccapignato, lui esce la notte al buio. Compreso. Ehi, compreso, voi, da noi andiamo. Beh, ora mi faccio un bel caffè, dai, ci sentiamo dopo. Ok. CQ10. C'è qualcuno?